Check it out. Quando il cattivo avrà ciò che gli spetta, riscattando il suo passato, un'infanzia complessa, distruggendo il suo nemico, il suo protagonista.